Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, prosegue anche oggi il ripasso di alcuni degli appuntamenti più significativi del 2011, scelti da voi, perché in realtà Franco Piantanida altro non ha fatto se non selezionare gli argomenti che hanno avuto più riscontri, più reazioni, più ascolti, anche in podcast da parte vostra. In questo caso avevo sottoposto al dottor Piero Volpi, un amico e un collaboratore storico di questo programma, una notizia proveniente da Londra, secondo cui sarebbe stato possibile prevenire gli infortuni con lo studio del DNA del calciatore. Sentiamo il dottor Volpi. Buongiorno a tutti voi, ciao Gigi. Ciao Piero, senti, come la configuriamo una notizia di questo genere? Ma forse un balzo molto importante in avanti, forse troppo in avanti, così in senso generico. Dal punto di vista scientifico direi che è un'idea che c'è già su altri campi, nella cardiologia, nell'oncologia, sì. Sarebbe importante capire e conoscere tutte le malattie che poi noi vediamo, se hanno poi effettivamente, come sembra in molti casi, una caratterizzazione genetica, e saperlo significherebbe sapere molto in anticipo. Pensate a quante malattie oncologiche, cardiovascolari, senza poi ovviamente poi l'applicazione può essere tradotta anche come in questo caso nello sport, però pensate, al di là di sapere se uno sportivo si fa male, sarebbe molto più importante abbattere quella con questo sistema di, perché poi immediatamente scattano i sistemi di prevenzione, e quindi questo significherebbe ridurre di tantissimo l'incidenza della mortalità e della malattia, di tante malattie gravi che purtroppo assillano oggigiorno la nostra vita quotidiana, la nostra società. Detto questo, il discorso, quindi l'idea è sicuramente un'idea che, ripeto, si sta già studiando in tanti campi e viene anche ovviamente applicata, come in questo caso l'iniziativa di vedere se anche nello sport e nel calcio in particolare si possa sapere se un giocatore andrà incontro più facilmente a una tendinite, sì, piuttosto che a una lesione ai legamenti, piuttosto che a una lesione al menisco o quant'altro. Però devo dire che siamo veramente proprio, ma non dico agli albori, siamo proprio ancora un foglio bianco, in cui comincia a scrivere, perché diciamo che la materia è veramente molto molto complessa. Se vuoi poi ne approfondiamo anche. Anche perché io ho visto che, sempre da questa notizia, ho ricavato che tra gli studiosi coinvolti c'è un primario di ortopedia alla Queen Mary University di Londra, che è un italiano, si chiama Nicola Maffulli. Ripeto, da una parte c'è il fascino di questa cosa, e tu stesso hai ricordato quali sono già stati nel frattempo i passi su altri versanti, direi anche leggermente più importanti della vita che non i risvolti poi sportivi o di pratica sportiva. Dall'altro però leggo che tra le consulenze che questo primario italiano londinese ha già dispensato ad alcuni, c'è per esempio, leggo, ripeto, da Fabio Cavaliere del Corriere della Sera, dice: il professore è stato consultato per Totti ed è stato suo il consiglio di risparmiarlo nel derby con la Lazio. Ora io, che avevo visto, non so, Roma-Atalanta la settimana prima e che non studio genetica, quando ho visto Totti restarci su un appoggio, una battuta di destro lungo l'aula laterale, ho pensato che se ne faceva per un mese come minimo, e credo che invece diventeranno due, da quello che ho capito, senza aver studiato il DNA. Quindi non so come dire, tutto questo da un lato affascina, dall'altro mi turba. Sì, hai centrato l'argomento, cioè l'iniziativa, l'idea è affascinante, ma come ho detto ancora tutta da percorrere. Non si sa neanche se si arriverà poi alla fine di un tunnel, cioè di una validazione di queste cose. Ne parleremo magari un attimino più avanti, approfondendo anche il perché. Quello che tu dici è che oggi giustamente abbiamo, per esempio, poi parlando di test genetici, poi si dice, si consiglia a un giocatore di star fuori, cioè oggi abbiamo tutti gli elementi già, il medico dello sport, l'ortopedico, il traumatologo che segue una squadra ha degli elementi importanti che non sono certamente dei test genetici per dire a un giocatore sei pronto per giocare. Cioè elementi preventivi, stai intendendo preventivi, tu. Pensate, per esempio, cioè se si volesse, noi abbiamo dal laboratorio Ma se uno se tutti i nostri giocatori facessimo gli enzimi, li avessimo fatti fra ieri e l'altro ieri, oggi probabilmente nel turno di campionato molti giocatori dovrebbero stare fuori. Quindi è perché ci sono magari ancora enzimi che non riesce a recuperare in 2 o 3 giorni. Quindi, come vedi, se si vuole applicare dei sistemi di prevenzione, è chiaro che li hai. Poi è chiaro che il calcio di oggi, che è così frenetico, che giochi 7 partite in 20 giorni, che anche tutti questi esami vanno un po' a farsi benedire, perché sì. Però gli elementi li hai, è un po' come tradotti per la popolazione normale, molto semplicemente, se uno ha il colesterolo alto non c'è bisogno di fare un test genetico, perché è un fattore predisponente per ammalarsi di malattia cardiovascolare. Se uno fuma 20 sigarette al giorno o di più, è chiaro che già quello è un fattore predittivo di andare incontro a problemi anche più seri per l'oncologia e quant'altro. Quindi voglio dire, esistono dei test, delle valutazioni nel calcio. Poi ho detto questo, ma pensate ai isocinetici per capire se la massa muscolare delle cosce è equilibrata o non è equilibrata. Esiste i test da campo che fanno molti preparatori atletici sulla performance dei giocatori, i test, come abbiamo detto, di valutazione anche del colesterolo per il sovrallenamento. Quindi abbiamo tantissimi test già molto superiori a quello che oggi è il test del DNA, certo. Assolutamente. Quindi, poter dire a un giocatore, guarda che tu puoi avere, per dire a un giocatore può avere qualche rischio a giocare, poi dopo non è detto. Un altro fatto fondamentale, poi veniamo invece al punto della genetica, che magari è bene dare qualche così indirizzo, un altro punto fondamentale è che comunque tutte queste cose, anche se verranno scoperte, cioè ammettiamo che noi riuscissimo a scoprire che per esempio il tendine si ammala attraverso dei geni, 2, 3, 4 geni che hanno delle varianti e si possono scoprire, poi lo stimolo ambientale, come avviene nell'oncologia, nella cardiologia, in tutte le malattie e anche nello sport, stimolo ambientale che in questo caso non è l'ambiente ma è il trauma, cioè tu giochi a calcio e non puoi prevedere se uno da dietro ti calcia e ti determina un trauma distorsivo al ginocchio, quindi il fattore stimolante non può essere distolto. Quindi anche se a uno dici guarda che tu probabilmente potrai essere più fragile in un legamento, ma ci vuole il trauma. Se questo in tutta la carriera non riceve un trauma gravissimo, giocherà benissimo fino a 100 anni. Non so se ho reso l'idea. L'hai resa, sì. Questo genere di appuntamenti suscita, e lo dico con grande piacere, sempre interesse anche da parte di chi nel calcio opera, e opera a vario titolo. Vi leggo una mail campione giunta nei giorni scorsi da Torino, a proposito per esempio di attività formativa di ispirazione calcistica. La scrive Claudio Cortese, che dice: le segnalo che in qualità di responsabile scientifico e coordinatore del team di docenti seguo da 3 anni il progetto Formazione Juventus, un percorso formativo che la Juventus FC rivolge a tutti gli atleti del proprio settore giovanile, che sono oltre 300 bambini e ragazzi, e prevede oltre 100 ore di formazione l'anno su temi quali la gestione delle emozioni, imparare dai propri errori, alimentazione sana, fair play, eccetera. L'obiettivo è utilizzare questa esperienza per veicolare conoscenze, atteggiamenti e valori in grado di favorire la maturazione dei giovani atleti, con metodi attivi, giochi, discussioni di gruppo, testimonianze di campioni della prima squadra, eccetera. Se foste interessati ad approfondire, certo che sì, caro professor Cortese, lo faremo evidentemente con l'anno nuovo. Grazie. Torniamo in compagnia del dottor Piero Volpi. Vedete come sono complesse le cose. La complessità invece, entrando, se mi consente certo. Un minuto, entrando nella materia prettamente genetica, per farvi proprio un esempio, oggi esistono diciamo delle malattie considerate genetiche a predisposizione genetica dominante, cioè a dire tu hai quel gene alterato, sviluppi la malattia. Faccio degli esempi: uno è la fibrosi cistica, per esempio, l'altro sono le distrofie di Duchenne, la talassemia. Se uno ha il gene alterato, sviluppa la malattia. Qui, in questo studio e in quello che sarà lo studio dello sport per capire se un giocatore ha una predisposizione, non parliamo di un gene singolo, ma parliamo di più geni che hanno delle microalterazioni. Tieni presente che i geni scoperti attuali sono fra i 30 e i 40 mila, il DNA ha milioni di pezzettini attaccati uno con l'altro, quindi l'integrazione di queste cose è di una complessità enorme, perché tu devi studiare migliaia e migliaia di soggetti, trovare in quei soggetti 4 o 5 alterazioni magari che governano per esempio la debolezza di un tessuto che si altende o il legamento, e una volta fatto questo validare il fatto che questo possa determinare la la possibilità che avvenga è comunque bassa, 2 o 3 volte, non di 100 volte. Quindi capisci che a fronte di uno studio che richiede risorse, costi, perché l'indagine genetica non è semplice, è semplice prendere la saliva, ma non è semplice poi studiarla al microscopio, DNA, e ha dei costi molto elevati su popolazioni enormi. Alla fine, probabilmente questo, non è un percorso facilissimo, può darsi che 10, 15, 30 anni si riesca magari con altre metodiche a meglio comprendere questo aspetto. Ti faccio anche un altro esempio, ma per la gente comune che magari non è addentro a queste problematiche: si sta studiando da una decina, una quindicina d'anni il carattere della statura su test genetici. Questo è quello che anche i nostri genitori, i nostri nonni dicevano: ah, 2 genitori alti, un figlio alto. Ecco il gigante, certo. Capito? Quindi sembra la cosa più facile del mondo. Beh, ci sono centri nel mondo che stanno studiando questo dato, che è poligenico, quindi non monogenico, come ho detto prima, cioè legato a più geni, e ci stanno perdendo ancora la testa da 10 anni. Questo per dirti, ecco, per dire che l'idea, tornando alla base, è sicuramente un'idea affascinante, è messa così anche molto, molto bella, è suscettibile di entusiasmo e interesse, però da qui a praticarla, secondo me, ne passerà tantissimo di tempo. Ho l'impressione anch'io che ce l'hai proiettata, ce l'hai non solo dettagliata mirabilmente e scientificamente, ma ce l'hai soprattutto proiettata nel futuro. Piero, io chiuderei agganciandomi a una tua osservazione di prima, a una parentesi di prima, e cioè tu hai detto gli strumenti li abbiamo già per studiare e per prevenire, non soltanto per curare, e stiamo tornati adesso nell'infortunistica da calcio, per esempio. Beh, mi sembra che lo si stia vedendo anche da noi in questa stagione. Sarà che non è la stagione post-mondiale, sarà non lo so quale altro fattore, però rispetto alla moria di un anno fa di infortuni e di traumi, soprattutto di tipo muscolare, mi sembra che ci sia una regressione significativa. No, secondo me hai perfettamente ragione. Cioè, secondo me ci sono 2 fattori. Fermo restando che si gioca come l'anno scorso, quindi non è stato modificato quello che è, perché vedi, in questo momento ci sono squadre come l'Inter e il Milan che stanno giocando 7 partite in 22-23 giorni, no? E quelle che fanno le coppe, poi ci sono le nazionali, i turni infrasettimanali e quant'altro. Quello che si sta modificando è quello che un pochettino in meglio, siamo tutti contenti, è quello che stai dicendo tu. Cioè, secondo me ci sono state preparazioni, a parte qualche caso eccezionale, preparazioni molto più accurate, nel senso che si è dato più importanza, si è ridata, perché una volta c'era, più importanza alla preparazione estiva. Cioè, si è cercato, molte squadre hanno puntato su questo aspetto. Sì. E questo secondo me è un fattore determinante, lo ripeto, perché avere 15-20 giorni in cui tu ti dedichi solo a immagazzinare energie, a fare la vecchia preparazione che si faceva una volta, ma non vecchia perché è vecchia come metodi, no, no, come impostazione, di idea, di filosofia, e non andare a giocare un torneo dopo 3 giorni. Ecco, questa situazione, secondo me, molte squadre, io sono stato attento, hanno scelto questo tipo di percorso e secondo me hanno fatto molto bene. 2, il fattore di un'attenzione maggiore a quello che dicevi tu su questi test, cioè secondo me in questo momento sia l'allenatore sia il preparatore preferisce magari non far giocare il giocatore anche bravissimo, ma che può correre un piccolo rischio. E lo tiene in panchina o lo tiene fermo. Vedo che ci sono un pochettino più di situazioni di questo tipo in generale su tutte le squadre, e questi 2 fattori hanno già un pochettino abbassato, non in maniera enorme, però come dici tu, con un rilievo statisticamente significativo. E l'altro fattore che io aggiungerei è quello che ovviamente noi abbiamo ancora rose molto molto pletoriche, molto grandi, molto ricche, però devo dire che l'altro fattore importante che si cita molto, e finalmente si cita, io ormai penso di essere stato il primo da 3-4 anni a lanciare questo messaggio, è sull'età, perché okay, noi abbiamo mediamente squadre che sono tendenzialmente di età avanzata, e questo sicuramente porta a quello che dicevamo prima, cioè a giocare, non il giocatore anziano è fantastico perché è un giocatore che ha più esperienza, perché ha più magari capacità anche del giovane, però voglio dire recupera meno fra partita e partita, soprattutto nel breve, nei tre giorni, e sentire, per esempio, ho sentito Mazzarri recentemente, parlo della natura del Napoli, che quest'anno anche loro hanno questo tipo di impegno, Champions, campionato, nazionali, eccetera, dire: ma io, è stato uno di quelli che più di tutti ha puntato al tour 9, lasciandoci le pene anche, mi sembra, a Chievo. Come no? No? Come no? Ecco, quindi voglio dire, poi dopo si passa a un turnover esagerato, si può discutere, ma io l'ho sentito personalmente anche nella trasmissione televisiva e lui mi fa piacere che abbia considerato come fatto importante questo. Vedi che gli allenatori sono più attenti. Ma non c'è dubbio, anche se poi, a me piace ogni tanto tornare a questi elementi di irrazionalità o apparenti irrazionalità del calcio, che poi alla fine contribuiscono a dare, anche in questo caso, a dare fascino. Cioè poi si arriva alla società modello e alla squadra modello per eccellenza, che è il Barcellona, che non cambia allenatore, è la quarta stagione di Guardiola, quindi ragionevolmente non cambia metodologie, e di colpo invece è la squadra che ha più incidenti muscolari, ne perde quasi uno a partita, e tra l'altro per periodi lunghi, perché Sanchez è fuori ormai da quasi 2 mesi, e poi Fabregas, e poi Piqué, eccetera eccetera. Cosa vuol dire? Questo è il domandone finale, che non mi sembra da poco. Vuol dire che probabilmente in questi casi, o una base magari di casualità ci sta, però ci sta anche il fatto che magari questi giocatori abbiano un po' abbassato, perché sai, poi quando fai sempre le stesse cose ci sta anche che un po' abbassi il livello di guardia. Ah, sì, l'idea. Anche nel livello della preparazione, la puntigliosità, i sistemi di prevenzione. Penso più a questo che altro. Sì. Penso certamente al logorio, perché stiamo parlando di giocatori Piqué, mi sembra. No, anche perché poi giocatori giovani, cioè giocatori che hanno, però sai, quando poi tu giochi 2, 3, 4 anni con gli stessi giocatori, fai le stesse metodologie, perché alla fine poi devi mettere qualcosa di innovazione, perché se no poi dopo che magari diventa un po' un'assecuzione, e allora puoi rischiare magari anche qualche elemento di lesione muscolare in più. Non dimentichiamoci che il Barcellona quest'anno ha avuto una partenza molto molto, come dire, intensa, perché ha dovuto giocare su tanti fronti, compreso la Supercoppa. Sì, quindi probabilmente ha forzato troppo in partenza, che era quello che dicevi prima, invece che non è accaduto in Italia in certi casi. Beh, è stata una delle lezioni periodiche che ogni tanto abbiamo il privilegio di ascoltare, e quindi un saluto e un abbraccio, direi, al dottor Piero Volpi. Grazie a te Gigi, grazie a tutti. Grazie. Arrivederci a tutti. Una mail d'autore e di un fedelissimo che scrive da Pavia, si chiama Oliviero Tacchella, e sentite come scrive. Al di là dell'argomento, che trovo personalmente molto affascinante, ma sentite il come. Il Barcellona è ancora sempre Davide. Lo è perché da quelle parti Golia è merengue, la stampa, gli sponsor, la gente, il rei también es merengue, persino l'odio etnico ha il colore viola. È merengue la superiorità culturale e storica di Castiglia e León che fecero la Spagna, il generalissimo, che il demonio se lo porti, anch'egli era merengue. I catalani sono ispanici per dominio e per confine, ma la loro lingua ai suoni raffinati dell'Aquitania e della Provenza. Loro non gridano, vivono sommessi anche i grandi momenti. Pep Guardiola, Xavi, Puyol, mai fuori dalle righe. E per fare di un catalano un personaggio ha dovuto intervenire Shakira. Loro hanno una paura atavica di gridare quanto sono bravi, che domani, se sbagliano qualcosa, il lusitano li risospinge nel ridicolo, sostenuto da un'intera nazione che non vede l'ora di coprirli di risate fragorose e dissacranti. Entrano negli stadi in punta di piedi, giocano rispettosi e senza sicumera, vincono, stravincono, ma i titoli della prensa se li beccano quegli altri, perché quelli sono in Spagna, questi qualcos'altro, che scrivono UNICEF sulle maglie, giocano seri anche nel Brescia e poi invitano vecchi coach dimenticati da tutti alla finale romana di Champions League. Ci hanno provato in tanti da quelle parti a farli gridare, Cruyff, Schuster, Ibra per ultimo, ma loro non ci sono mai cascati. Li hanno lasciati sfogare, il sorriso conciliante di Pep in risposta, perché a Barcellona todo se pasa nel silenzio, come dice il loro più grande poeta moderno, Carles Duarte y Montserrat. Firmato Oliviero Tacchella, e credo che questo sia davvero un autentico pezzo d'autore. A fine novembre era tornato drammaticamente d'attualità il tema della depressione nel calcio. Il suicidio di Gary Speed, ci tira il Galles, non poteva non evocare altre tragedie, a cominciare da quella di Robert Henke, il portiere dell'Hannover e della nazionale tedesca, che si era suicidato nel novembre del 2010, ma senza dimenticare altri casi di depressione, anche quelli superati e risolti, e magari raccontati dagli atleti stessi, come era successo a Buffon nella sua autobiografia, in cui per l'appunto ricostruiva il suo caso di depressione risalente grosso modo al 2004. Quel giorno ne parlammo con uno psichiatra illustre. Allora, tanto per cominciare, do il benvenuto al professor Claudio Mencacci, psichiatra, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'azienda ospedaliera Fate Bene Fratelli di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi, gli ascoltatori. Guardi, io le sottopongo a lei e soprattutto agli ascoltatori, perché insomma siamo fuori tema oggi rispetto alle nostre più modeste abitudini, le sottopongo un impressionante elenco recente di casi del genere. Allora, domenica in Belgio ha tentato il suicidio l'assistente di una partita di Serie B, a un'ora circa dalla partita. La settimana precedente, meccanismo probabilmente imitativo, perché la settimana precedente aveva tentato di uccidersi l'arbitro tedesco Rafati prima di Colonia Magonza in albergo, ed era stato salvato per miracolo. Se parliamo di Germania, risale a 2 anni fa il caso più eclatante, il suicidio riuscito del portiere dell'Hannover Henke, che era un candidato alla nazionale tedesca per i mondiali dell'anno successivo. A settembre di quest'anno, e cioè a 2 anni di distanza, 2 mesi fa, il secondo portiere ancora dell'Hannover, Miller, ci ha provato ed è stato invece salvato. E poi citerò altri casi più avanti. In Italia, insomma, qualcosa è successo e poi ne parleremo. Che cosa sta accadendo, professore, in questo mondo dello sport? Nel mondo dello sport è un riflesso del mondo più generale. Il tema del tentato suicidio e del suicidio è sempre all'ordine del giorno. Purtroppo i numeri parlano chiari. Si calcola che nel mondo ogni anno ci sia circa 1,5 milioni di suicidi. Quindi numeri e proporzioni di questo ci dicono come anche nei paesi europei, tanto più a nord saliamo, più questo tasso aumenta, in media abbiamo dai 5 alle 6 persone su 100.000 che si suicidano. Quindi il suicidio diventa una causa di morte in alcune fasce dell'età della vita, in particolare tra adolescenti, giovani e adulti, tra la seconda e la terza causa di morte dopo gli incidenti stradali. Cioè, quindi questo fenomeno che oggi troviamo nello sport. Anche nello sport, sì. È un fenomeno che dobbiamo tener conto che è anche correlato, da un lato ovviamente all'andamento su una popolazione generale, ma dall'altro dell'aumento anche sicuramente della pressione che subisce questo mondo, quindi anche di risultati, di competizione, che da un lato fanno sì che dei soggetti vulnerabili o che vengono esposti a un disturbo psichico poi abbiano un tentato suicidio o un suicidio in questo ne parliamo. Abbiamo esperienze italiane, se vuole ne possiamo parlare. La più clamorosa è sicuramente stata quella di Pessotto, che con grande umanità e con grande capacità è riuscito anche a essere un testimonial attraverso il suo libro della sua esperienza umana e quindi a dire quanto la solitudine, quanto anche la condizione umana e psichica pesa in un mondo che pur essendo per molti versi protetto, perché sappiamo l'attività fisica, la competizione protegge da certi disturbi, ma non ne è esente e la solitudine non risparmia nessuno, neanche gli sportivi. Lei ha parlato prima di pressione, e cioè di insomma della difficoltà per i soggetti, evidentemente con un carattere forse più debole, insomma, di reggere la pressione, come dire, mediatica, di tifoserie, eccetera, la pressione che chiede che crea forse l'ansia da prestazione. Stiamo parlando in questo caso di prestazione sportiva. Tra pressione e depressione, no? Perché tra l'altro poi c'è anche un problema, c'è anche una contiguità linguistica. Qual è il nesso che fa scaturire questa? È molto forte. Tenga conto che noi calcoliamo, la scienza calcola che dall'80 al 90% delle persone che tentano il suicidio o che si suicidano abbiano un disturbo psichico. Quindi è spesso un disturbo psichico che non viene riconosciuto, e la depressione anche per le persone che non sono nello sport viene riconosciuta solamente nel 50% dei casi. Il rapporto qual è? È che fondamentalmente una condizione di stress produce proprio dal punto di vista fisiologico una serie di modificazioni ormonali e anche delle difese immunitarie dell'individuo, sportivo compreso, sì, che a sua volta possono innescare un meccanismo che ha una base fortemente biologica, che è quello di far sì che l'individuo via via si ritrovi in una condizione di depressione. Quindi c'è un collegamento stretto tra uno stress prolungato, cronico, e la comparsa successiva, normalmente prima attraverso i disturbi del sonno, d'ansia, ma poi di comparsa di depressione, e quando inizia la depressione i pensieri e poi a volte i progetti invece di carattere autosoppressivo poi diventano molto molto più frequenti, e purtroppo qualcuno poi li mette anche in atto. Professore, le do un altro elenco di persone che ci sono riuscite. Allora, tre giorni fa Gary Speed, comincerei da lui perché era il CT del Galles, era, non so, il Prandelli, il Lippi, il Bearzotti, vedete un po' chi preferite, del Galles, 42 anni, una splendida famiglia, un successo, 500 partite giocate in Premier League, quindi una carriera collaudata ad ogni genere di tensione, di stress e tutto il resto. Nominato da poco, non da molto, commissario tecnico del Galles, quindi anche a pagamento di carriera, oltre che familiare, due figli splendidi, una moglie modella, rapporti eccellenti, almeno quello che se ne sa, ha deciso di farla finita. Questo era, diciamo, in questo momento sulla cresta dell'onda. Qualcun altro, non so, sto pensando a Quinon, un altro caso del 2011. Questo era un francese che aveva vinto l'oro olimpico nel salto con l'asta nell'84 a Los Angeles. Allora, può darsi che in questo caso, come dire, le luci alla ribalta che si erano spente abbiano agevolato. Fatto sta che si è buttato nel balcone di casa e ci è riuscito. Che cosa può accomunare situazioni così diverse? Beh, la cosa alla quale dobbiamo pensare è che è proprio la diffusione dei disturbi psichici. Io le do un dato fra tutti, e ogni anno il 38% della popolazione europea ha un disturbo psichico. 38%, il che vuol dire, ragazzi, che per quanto ci siano delle professioni più o meno a rischio, questo è un problema che riguarda quasi la metà di ciascuno di noi. Quindi il vero suggerimento è che dobbiamo smettere di vergognarci di avere dei disturbi che hanno a che fare con il cervello, così come hanno altri a che fare con il cuore o con i polmoni. Dobbiamo veramente far di tutto per togliere quel senso di vergogna, piuttosto che di stigma, di chi ha un disturbo che oggi sappiamo essere fondamentalmente un disturbo del cervello. Purtroppo devo dire che a volte è la solitudine, perché tutte queste persone erano in grado di poter chiedere aiuto e avrebbero avuto la possibilità di riceverne moltissimo dalle persone sia attorno a loro sia, nel caso, anche da specialisti. Però c'è questo peso, il peso è di non poter parlare, di non potersi mai mostrare con la momenti di difficoltà che ciascuno individuo può attraversare, ma è l'isolamento e la solitudine, il pensare di non poter andare oltre, che lo schiaccia, a pensare che solamente nel darsi la morte volontaria sia la soluzione finale a quel dolore insopportabile che si prova dentro. Questo è il punto, al certo, di là delle luci. Ecco. Professore, io le chiedo, Tra i messaggi che arrivano, no, ce n'è una serie, proprio un gruppo che, insomma, lei fa questo di mestiere e quindi sicuramente sarà abituato a leggere, a me mi fanno un po' inferocire, perché sono quei messaggi che dicono: ma come questi che vivono sta vita dorata, che sono ricchi, amati, idolatrati, eccetera, non sanno cosa vuol dire strappare la vita con i denti tutti i giorni, eppure hanno ancora anche queste, avrebbero queste pretese in più e comunque fanno questa brutta fine. Glielo spieghi lei che non è così, dobbiamo riconoscere che la sofferenza ci prende in ogni momento. Certo è che se siamo impegnati nella sopravvivenza, diciamo nel vivere alla caccia della propria, come dire, soddisfazione, di sfamarsi ogni giorno, può risultare complesso arrivare all'atto del tentato suicidio, sì, o del suicidio, sì. Però io posso assicurare che non guardo in faccia a nessuno, e ho visto nella mia pratica clinica persone poverissime suicidarsi e persone ricchissime suicidarsi, perché questo fa parte di una dimensione umana che è quella della sofferenza. E che prescinde dal reddito, no? Mi pare. Prescinde dal reddito e prescinde anche, soprattutto, dalle luci della ribalta, perché le luci della ribalta hanno sempre il lato solare, però hanno anche sempre il lato oscuro. Questa non è una sola giustificazione, ma è quanto la pressione, quanto la persona è sottoposta a delle pressioni che per comuni mortali come noi nessuno si immagina. Io non solo la ringrazio per il suo intervento e per il suo contributo prezioso, ma soprattutto per quella frase che tra le tante persone che ci ascoltano, magari non lo so, magari c'è anche qualcuno che in questo momento sta soffrendo, che potrebbe avere qualche piccolo germe iniziale, no? Qualche cellula che comincia ad ammalarsi. Quando lei ha detto bisogna innanzitutto smettere di vergognarsi, penso che lei sia stato utile a molte persone. Anch'io la ringrazio, lei, per aver dato spazio a un tema di questo genere all'interno dei temi sportivi. Bisognerebbe riuscire a parlarne di più, perché, come dire, non risparmia nessuno, e poterne parlare vuol dire dare una mano alle persone di sapere che possono chiedere aiuto e che c'è una soluzione a tutto tranne che al darsi la morte volontaria. Speriamo, professore, di tornare a parlarne presto, possibilmente senza spunti di cronaca attuali. Auguri. Uno dei tantissimi messaggi arrivati quel giorno, no? A corredo dell'intervento del professor Mencacci. Carissimo, ancora una volta sono sintonizzata con lei, perché proprio qualche minuto prima della sua trasmissione stavo pensando al rapporto indissolubile tra uomini e suicidio, quindi tra uomini e sofferenza, uomini e sconfitta, uomini preciso, non donne. Per questo non mi sorprendo dei suicidi nello sport e non mi sorprendo della sua scelta molto in tema. Per questo, come donna, avrei molto da dire sull'accettazione della sofferenza e della sconfitta, non della rassegnazione, ma forte resistenza della donna contro la debole reazione degli uomini. Questo messaggio era firmato Laura Sposato da Salerno e vi dà un'idea no, del tipo di partecipazione che ci fu quel giorno e di coinvolgimento, e avete sentito a che livello, rispetto ad un tema di questo spessore, diciamo pure di questa gravità. Beh, avendo ripescato i messaggi di quel giorno, di quei giorni, tanto vale leggerne alcuni, perché danno per l'appunto un'idea della partecipazione popolare. Gilberto da Trento, che si dichiara juventino, scrive: argomento scivoloso e difficile, ma mica si può sempre parlare di scudetti revocati e di ricorsi. Angelo da Cuneo: sono un prete. Come avete trattato la questione è l'unico modo sensato, tanto più in un contesto non religioso. Mi vergogno di chi vi ha criticato e invece grazie. Max D'Alecco: buongiorno, una delle puntate più interessanti del suo programma. Nemmeno quando raccontò la mia squadra a vincere la Champions League riuscì a catturare la mia attenzione così come oggi. Ti abbraccio con grande affetto, scrive Emilio da Ivrea, per aver trattato questo argomento in modo così serio e insieme così lieve. Stefano: purtroppo la depressione è la malattia più democratica e più subdola che c'è. Lo sport, quello vero, scrive Claudio da Prato, può portarci a parlare di temi di più alto valore, in questo caso la salute mentale. Oggi lei è stato di conforto a tante persone che hanno avuto problemi, scrive Omar. Ma insomma, questo mi sembra che lei esageri un po', questo non è un conforto, è stata semplicemente direi un dovere di cronaca più ancora che un diritto. Sono Mirko Capacci da Arezzo. La ringrazio per aver fatto parlare il professor Mencacci, anch'io ho sofferto e soffro talore di depressione, ne soffriva anche il maestro Montanelli, quindi dal contadino quale io sono al letterato. La gente non abbassi la guardia, l'indifferenza è la cosa peggiore. E poi seguono saluti, insomma, messaggi di ogni genere da parte e di ogni taglio, veramente, veramente particolarmente graditi. Da un argomento così difficile io salterei adesso per chiudere questa puntata a sua volta rievocativa, e per finirla in letizia, ad un anagramma d'autore, nel senso che volendo si scrive Balotelli ma si può benissimo leggere Altobelli, nella speranza poi che anche in nazionale e non solo nel club, perché ci sono comuni origini comuni origini bresciane d'adozione, no? Per questi due attaccanti c'è stata la maglia dell'Inter anche in comune,